Quando era toccato a me a parlare del rapporto fra scienza e letteratura, grosso modo avevo detto quanto segue, no? Certo che fra scienza e letteratura c'è qualcosa in comune. Per esempio, la scoperta scientifica e l'invenzione poetica si avvalgono entrambe del meccanismo della metafora. Ponendo un rapporto nuovo fra due cose, da scienziato scopro su una delle due qualcosa che ignoravo, oppure da letterato, da poeta, da artista, innesco un processo di innovazione, sia esso l'esito di un racconto, la forma di un verso, o il tocco finale di un dipinto, o la giusta posizione di due note musicali. Certo anche che c'è qualcosa di diverso fra scienza e letteratura. Nel trattare i suoi costrutti e i loro rapporti, lo scienziato deve rispettare, entro certi limiti, i costrutti ed i rapporti già posti da chi lo ha preceduto. La scienza è un'impresa collettiva che si basa sul ripetibile e sulla coerenza. Se dico che quel risultato lo posso ottenere soltanto io, in quelle mie particolari condizioni, non faccio lo scienziato, faccio il mago. E quel che ottengo, deve trovare un posto nell'enciclopedia condivisa della comunità scientifica alla quale appartengo, ben inteso. Entro certi limiti, dicevo, perché ogni tanto può anche capitare che un insieme di rapporti nuovi, posti oggi, non regga più con l'insieme dei rapporti posti ieri. Ed allora le strade sono due, o butto a mare il vecchio, o butto a mare il nuovo, oppure più precisamente lo tengo in freezer in attesa di una sistemazione meno problematica. Quando parliamo di rivoluzioni scientifiche, come quando ricordiamo il momento del passaggio dalla concezione tolemaica dell'universo a quella copernicana, ci riferiamo ad un caso in cui si è scelta la prima strada. Butto a mare il vecchio e tengo il nuovo, con gran soddisfazione magari del pitagorico Filolao o di Eraclite Pontico o soprattutto del povero Aristarco di Samosata, che già in epoca sicuramente non sospetta, come si direbbe oggi, avevano assicurato che era la Terra, ahimè, a girare intorno al Sole e non viceversa. Inascoltati. La scienza, insomma, nel suo procedere deve rispettare dei vincoli, vincoli che in teoria alla letteratura non toccherebbero affatto. Che poi gli artisti, per quanto liberi come l'aria, poi in realtà a certi vincoli siano particolarmente affezionati, è affar loro. Se vuoi vendere un romanzo, devi dargli una certa forma. Per esempio, un vincolo: non puoi inserire a pagina 120 una fetta di prosciutto, come fa invece un elettore spiritoso del mio seggio elettorale nella sua scheda, e dopo averlo dato alle stampe non puoi strappargli le pagine inadatte, mettiamo, al potenziale lettore che ti trovi di fronte, come faceva a quanto sembra Dino Campana con i suoi canti orfici. No, bene, più o meno avevo detto cose del genere. Ciò nonostante, un collega che nel dibattito ha parlato dopo di me ha iniziato con questa frase: io parlerò da letterato e pertanto userò parole meno precise. Ahimè, lo sconforto si è impadronito di me. Gli intellettuali mi sono detto mi fanno male, alla mia età dovrei, visto che li conosco, dovrei evitarli. Allora, punto primo: se pensi che io su scienza e letteratura abbia detto delle sciocchezze, dillo, argomenta le mie colpe e dimostra i miei peccati. Mettendola giù così può venire perfino il sospetto che non ti sia accorto di quanto tu vai affermando perfettamente di contrario. Dire che il letterato ha a disposizione parole diverse dallo scienziato, e infatti, equivale a separarne irrimediabilmente le strade. E una tale presunzione di specificità andrebbe perlomeno dimostrata. Punto secondo, se un interlocutore mi dice che parlando con me non userà il mio linguaggio, beh, comincio a sospettare come minimo che non mi voglia bene. Quando partecipo ad una chiacchierata è implicito che ne accetti le regole che la governano e che, almeno per la sua durata, debbono valere per tutti. Imporre in partenza una maggiore o minore precisione al senso delle proprie parole è direttamente un'affermazione autoritaria circa la propria autonomia e indirettamente un insulto per chi dovrebbe partecipare al dialogo, condannato in pratica a parlare a vanvera. Dal tabaccaio, al mercato o sul tram, questo tipo di mani avanti, per fortuna, non lo si trova facilmente. È roba da intellettuali. Da gente che ha tempo da perdere e soprattutto orticelli preziosi da non condividere. Quell'intolleranza di cui spesso ci lagniamo nasce da lì. Ecco, semmai, ecco sul piano strettamente sociologico, un altro punto in comune fra scienziati e letterati. Non a caso il discorso di questo mio collega di pubblico dibattito è andato a parare sull'ineffabilità della parola e sulla bellezza dell'indicibile. Sono tesi mistiche che ogni tanto tornano fra noi, per lo più per annunciarci periodi bui in cui i pochi fortunati che dell'ineffabile e dell'indicibile sono fortunatamente trasfusi, si accingono ad amministrare le nostre vite brandendo un aspersorio davanti al petto e impugnando un manganello dietro la schiena. Non so se questo mio collega ne fosse consapevole della genesi fascista del suo pensiero, ma sempre sul piano strettamente sociologico è dannatamente preoccupante che nel milieu intellettual letterario riavanzino proprio oggi, quando il capitale, sempre più con le proprie contraddizioni alla gola, ha bisogno di nuova autorità, riavanzino quelle ideologie dell'artista che, toccato da Dio o dalla storia, gli attribuiscono ineffabili ed indicibili virtù. L'andazzo dei tempi dimostrato dai refusi, anche un refuso che soltanto qualche tempo fa sarebbe stato impossibile. Sul Corriere della Sera dell'altro giorno, all'associazione Punto Rosso, Giorgio Nebbia parla sul rapporto fra uomo e natura in Engels e Marsh, come le merendine.